sarò con la forza che avrò. Ho pensato al mio passato, tutto quello che c'è stato, che cazzo ho realizzato, che cosa sono diventato. Per tutti scoccio uno stronzo mal cagato. Ok uomo, a scuola un bimbo un po' diverso per un difetto di parola. Un ragazzino, accumulavo e non capivo, mamma perché a tutti mi chiama Balbettino. Quanti pianti che asciugavo su un cuscino ed ero solo un bambino. Marco non soffrire, devi capire, sono dei bambini e si vogliono divertire. Ma questa roba mi fa troppo male, mi dico lascia stare sei speciale. Ma disegnavo a tutti quanti il loro funerale. E più passava il tempo più sta storia non cambiava. Il treno non passava e la mia rabbia dilagava. Vieni merda, prestami attenzione. Ho 8 anni e già sapevo tutto. Cos'è una pista? I problemi con la vista. In seduta da logopedista. Nella classe mi ridevano, nel mio cervello si spegnevano. Ombre nel buio che mi tramavano alle spalle. Nei miei pensieri mi giravano le stelle. Una ferita aperta nella mia coscienza. Adesso ridi, senti questa voce, pazienza. Mi dicevano di tutto, mi dicevano sei brutto. M'hanno dato del malato, dello schizzato pazzo visionario. Scusa ma solo brutte note nel diario. Scuole elementari medie, le risate dei balordi sulle sedie. Alle interrogazioni non parlavo, non fiatavo per paura delle umiliazioni senza spiegazioni. Il demone che mi sussurrava nell'orecchio ed io guardavo quello specchio. Quando ho capito, quando ho afferrato in questo mondo un nuovo Marco era nato. Uno dei tanti, cresciuto nano in una terra di giganti, del vecchio ma non c'era traccia. Quando ho capito che rispetto te lo devi guadagnare a pugni in faccia. A far a botte per un pezzo di focaccia. Sentirai il mio nome, lo sentirai in mezzo alle persone. Lo sentirai passare come treni alla stazione. Io ora sento questa percezione, che tutti i rospi che ho ingoiato non faranno indigestione. Realizzerò il mio sogno, ti incontrerò ma adesso sono stanco. Come il socio che è rimasto qui al mio fianco. Carta e penna, incazzatura e bolla sfogo sopra un banco. Imprimo la mia voce, metto il nero sul bianco, la senti poi bisbigli, magari poi sbadigli. Perché come disse Jay, cazzo in culo non fa figli, ma fa brodo per conigli e poi fa male se lo pigli. Mi batterò e morirò per quello che ho e non mi arrenderò mai. E ci riuscirò, più duro sarò con la forza che avrò. Senza però, ma non ho rancore, le tue parole dentro la mia testa, sai non fanno più rumore. Tranquillo uomo non ti odio, odio solo quello che è rimasto. Nessun rimpianto, manco macchie di rimorso di quando vi dimostro. Nessun discorso può tenermi alla lontana dal mio corso. Di tutti questi morsi nell'anima di un mostro, di troppa merda che è rimasta appiccicata lì nel cesso. Di tutte quelle lacrime sprecate ora dure come il gesso. Di ogni mio verso, nella storia di un disperso. In questi gesti non voglio più scavare nei miei resti. Nella testa ho sussurri che diverranno urla nei miei testi. Scusatemi signori se non sono più galante. Stringo la bandana e guardo in faccia il mio sfidante. Come un diamante, per ora, per sempre, scotch. Io mi batterò e morirò per quello che ho. E ci riuscirò, più duro sarò con la forza che avrò. Senza vero, senza vero. Da troppo tempo sono un trendo, la bestia che ho dentro, ormai sul fango. Senza vero.